Ofelia trovò Maria distesa sopra un sofà, col gomito affondato entro i morbidi cuscini, mentre Giovanna, che tornava da una corsa fatta nelle botteghe dei mercanti, spiegava innanzi a lei varie mostre di stoffe da lutto. «Ecco quella che mi va più a genio», disse Maria, scegliendone una. «Solamente io non sono sicura che sia proprio adatta per lutto». «Oh, signora», disse prontamente Giovanna, «la moglie del generale D'Erbennon portava appunto questa medesima stoffa nell'ultima estate quando morì il generale e le stava molto bene». «Che ve ne pare?» chiese Maria Ofelia. «Boh, si tratta di mode», disse questa, «in tal materia voi siete assai miglior giudice di me». «Il fatto è», riprese Maria, «che io non ho un vestito da mettermi addosso e poiché non terrò più casa e partirò la settimana prossima, bisogna che prenda una risoluzione in proposito». «Partirete così presto?» «Sì, ho ricevuto una lettera dal fratello di St. Clair. Egli e l'avvocato pensano che il meglio sia porre gli schiavi e le suppellettili all'incanto e di aspettare a vendere la casa alla prima occasione». «A proposito, avevo una cosa da dirvi», soggiunse Miss Ophelia. «Agostino aveva promesso a Tom la sua emancipazione e già aveva cominciato le formalità occorrenti. Spero che userete della vostra influenza per compiere quell'atto». «Mi duole di non potervi accontentare», disse Maria rudemente. «Tom è uno degli schiavi che possono valere di più sul mercato. E poi che bisogno ha della libertà? È meglio che resti nella condizione in cui si trova». «Ma egli la desidera vivissimamente, il suo padrone gliel'aveva promessa», ripeté Miss Ophelia. «Credo bene che gliela desideri», soggiunse Maria. «Tutti costoro vorrebbero averla. Già è una razza di malcontenti che brama sempre quel che non ha. Del resto io sono contraria all'emancipazione. Lasciate un nero sotto la cura di un padrone ed egli si comporta piuttosto bene, ma se lo rendete libero diverrà infingardo, inerte, ubriacone e più ignobile dei viventi. Ne vidi far la prova 100 volte e non è certo un favore per essi porli in libertà». «Ma Tom è così buono, così laborioso!» «Oh, lo so, ne ho veduti tanti altri come lui. Egli si porterà egregiamente fino a che sarà sotto la tutela di un padrone e questo è tutto». «Ma considerate almeno il rischio che gli corre se lo ponete in vendita di imbattersi in un cattivo padrone», disse Miss Ophelia. «Accade una volta su 100 che un buono schiavo si imbatta in un cattivo padrone. Il maggior numero dei padroni però sono brava gente. Io vissi nel sud, vi fui educata, né mai conobbi un possessore di schiavi che non li trattasse bene, almeno secondo il merito loro. Da questo lato vivete tranquilla». «Ebbene», esclamò Miss Ophelia energicamente. «So che è uno degli ultimi desideri di vostro marito che Tom recuperi la libertà. Egli lo aveva promesso alla cara Eva sopra il suo letto di morte. Ne avrei mai pensato che vi credeste in diritto di non farne uso». A questa apostrofe, Maria si coperse il volto col fazzoletto e si pose a singhiozzare usando della sua boccetta con gran veemenza. «Ho tutti contro!» esclamò. «Nessuno a riguardo di me! Non mi sarei mai aspettata una cosa simile da voi! Venite a ridestarmi la memoria delle mie pene! Bella compassione avete di me, ma nessuno a riguardo delle mie tribolazioni!» E Maria singhiozzava tanto da perderne il respiro. Chiamava poi Mammy per aprire la finestra, perché le bagnasse la fronte con l'acqua canforata e le slacciasse la veste. Nella confusione generale che ne seguì, Miss Ophelia si ritirò prudentemente nella sua camera e la capì che era inutile dire altro, poiché Maria aveva sempre a sua disposizione gli attacchi di nervi. Dopo quella scena, ogni volta che si faceva allusione alle intenzioni di suo marito o al desiderio di Evangelina a proposito degli schiavi, ella era pronta a ricominciare altre simili scene. Miss Ophelia fece dunque per Tom la cosa migliore che potesse, fu di scrivere alla signora Shelby esponendo gli affanni di lui ed eccitandola a dargli aiuto. Il giorno seguente Tom, Adolfo e mezza dozzina di altri furono condotti al magazzino di schiavi per essere a disposizione del mercante che doveva comporne un assortimento per la vendita all'asta. Capitolo 30. Il magazzino degli schiavi. Un magazzino di schiavi. Forse il lettore si forma un concetto orribile di un tale luogo, vede con l'immaginazione qualche lurida e tenebrosa caverna somigliante al Tartaro degli antichi, ma no, ingenuo amico mio, ai tempi nostri gli uomini conoscono l'arte di fare il male garbatamente, decorosamente, senza offendere gli occhi della rispettabile società. La merce umana si sostiene molto bene sul mercato e perciò è ben nutrita e tenuta con gran pulizia affinché si possa presentare alla vendita in ottime condizioni. Un magazzino di schiavi a New Orleans è una casa decente, dinanzi alla quale potete vedere ogni giorno, sotto una specie di tettoia, una fila di uomini e di donne che qui vi stanno come un'insegna. Sarete invitati cortesemente a entrare e ad esaminare i diversi capi di merce e troverete in abbondanza mariti, mogli, fratelli, sorelle, padri, madri e bimbi da vendere separatamente o per lotti a volontà del compratore. E quest'anima immortale, redenta dal sangue e dall'agonia del figliuolo di Dio, nell'ora misteriosa in cui la terra tremò, in cui le rupi si fenderono e si apersero le tombe, può essere venduta, noleggiata, ipotecata o scambiata con droghe o altro, secondo le eventualità del commercio o il capriccio del compratore. Un giorno o due dopo il colloquio avvenuto tra Maria e Ofelia, Tom, Adolfo e altri schiavi della famiglia Sinclair furono condotti presso il signor Skaggs, che teneva un deposito in città, per aspettare la vendita che doveva farsi il dì seguente. Tom aveva seco, come i suoi compagni di sventura, una cassa piena di vestiti e biancheria e si furono introdotti per dormirvi in una vasta sala dove molti altri uomini di ogni età, statura e gradazione di tinta erano radunati, fra cui si udivano scrosci di risa e grida di spensierata gioia. Ah! Così va bene, coraggio figliuoli, disse il signor Skaggs. Su, sempre allegri. Oh, sei tu, Sambo. Soggiunse, rivoltosi con tono di voce approvativo a un grosso nero che si esercitava in sconce grullerie, destando le liete grida che Tom aveva udite entrando. Come ognuno può immaginarsi, Tom non era punto disposto a prendere parte a quella ricreazione, posta perciò la sua cassa più lontano che gli fu possibile dal rumoroso crocchio. Egli vi sedette sopra e appoggiò la fronte al muro. Coloro che fanno traffico di corpi umani si sforzano scrupolosamente di promuovere nei loro magazzini una gioia vivace, giudicandolo il miglior mezzo di far dimenticare agli schiavi la loro condizione. Dall'istante in cui il nero è venduto sul mercato del nord fino al suo arrivo nel sud, il suo possessore mette in opera ogni espediente per disciplinarlo in modo che diventi spensierato, duro e brutale. Quello che rifiuta di essere giulivo perché ripensa troppo alla moglie, ai figli, alla propria casa, è notato come riottoso e pericoloso e va soggetto a tutti i crudeli trattamenti che un padrone disumano, sciolto dal freno d'ogni legge, può infliggergli. La vivacità, il brio, la gaiezza, in specie alla presenza dei visitatori, sono cose che ad essi costantemente si comandano. Ora con lo stimolo della speranza di ottenere un buon padrone, ora col timore dei castighi che loro si serbano se mai rimangono invenduti. Che si fa costì? Disse Sambo venendo presso a Tom dopo che il signor Skeggs fu uscito dalla camera. Ehi, amico, mediti forse? Penso che domattina debbo essere venduto all'incanto, rispose Tom placidamente. Ho venduto all'incanto, che gran male! Vorrei anch'io trovare lo spaccio e vi farei ridere a crepapancia. Ma questo giovane qui è da vendersi anch'egli domani? Chiese Sambo mettendo la mano sulla spalla di Adolfo. Vi prego di lasciarmi in pace, disse Adolfo alteramente, rizzandosi con aria di profondo disgusto. Figliuoli, ecco qua un negro bianco, è tutto odori, disse l'altro accostandosi a Adolfo e nasandolo. Oh, come starebbe bene da una tabaccaia! Servirebbe a profumare tutta la bottega e lo spaccio andrebbe ottimamente. Scostatevi, dico! Esclamò Adolfo con ira. Oh, che superbia! Noi altri negri bianchi, guardateci un po'! E Sambo si mise a imitare comicamente le maniere di Adolfo. Siete un uomo di qualità, si vede che avete appartenuto a buona famiglia. Sì. Certo, disse Adolfo, io avevo un padrone che avrebbe potuto comprarvi tutti in una volta. Vedete un po', disse Sambo, sempre imitando i modi affettati di Adolfo, il bel gentleman che siamo noi. Io appartenevo alla famiglia Sinclair, riprese Adolfo orgogliosamente. Ma davvero? Possa io essere impiccato se il tuo padrone non è contento di disfarsi di te? Suppongo che ti venderanno con un lotto di stoviglie fesse e altre cose simili, disse Sambo con una smorfia provocante. Adolfo Esacerbato da quel dileggio, si slanciò furiosamente contro il suo avversario, bestemmiando e distribuendo pugni e manrovesci alla cieca. Gli altri sghignazzavano e battevano le mani. Attratto dal rumore, il custode si affacciò sull'uscio. «Che c'è, ragazzi? Quieti, quieti!» disse egli, agitando in aria una lunga frusta. Tutti fuggirono, chi qua, chi là, a eccezione di Sambo, il quale, prevalendosi del favore che godeva come buffone autorizzato, non si mosse dal suo posto, abbassandosi rattamente con una smorfia lepida tutte le volte che il padrone lo minacciava di una frustata. «Oh, padrone, non siamo mica noi. Noi stiamo tranquilli. Sono gli ultimi venuti, gente insopportabile che vuole attaccar briga con noi». Il custode, voltatosi allora contro Tom e Adolfo, distribuì loro senz'altra spiegazione parecchi calci e schiaffi. Poi, comandato a tutti di star quieti e di dormire, se ne andò. Mentre avviene questa scena nel dormitorio degli uomini, forse il lettore o la lettrice avrà desiderio di gettare uno sguardo nella sala vicina, assegnata alle donne. Colà, stese e addormentate sul pavimento in modi svariati, lei o lui potrà vedere buon numero di quelle infelici di ogni tinta, dal color d'ebano fino al quasi bianco e di ogni età, dall'infanzia alla vecchiaia. Qui una vaga fanciulletta di 10 anni, la cui madre era stata venduta il giorno prima, piangeva di dover dormire quella notte senza la tutela materna. Altrove una nera, vecchia e logora dalle fatiche, aspettava di essere venduta il giorno seguente come una mercanzia di scarto. Altre 40 o 50 di queste povere creature, col capo fasciato stranamente di varie stoffe, sono sdraiate intorno ad esse. In un angolo in disparte siedono due donne di non comune apparenza. Una di esse è una mulatta decentemente vestita, dell'età dai 40 ai 50 anni, con gli occhi pieni di dolcezza e di nobile e avvenente fisionomia, e là in capo un turbante fatto con un bel fazzoletto rosso di Madras. Le sue vesti sono di stoffa scelta e ben fatte e dimostrano che verso lei si ebbe gran bontà e amorevolezza. Al fianco di questa donna si stringe con ansia una giovinetta di 15 anni che è sua figlia. È una meticcia, come si scorge facilmente dal colore del viso, benché somigli molto alla madre. Ella ha gli stessi occhi neri e soavi, con più lunghe ciglia e con capelli bruni, dorati e più copiosi. Anch'ella è vestita molto lindamente e dalle sue bianche e delicate mani si conosce che non fu mai impiegata in faccende servili. Ambedue devono essere vendute l'indomani nello stesso lotto che i servi di Sinclair, e la persona a cui esse appartengono e alla quale il denaro della loro vendita sarà trasmesso è un ecclesiastico di New York. Egli riceverà questo denaro e andrà poi a compiere i sacri riti all'altare del suo Dio. E di quelle poverette né vi penserà più. Le due donne, per nome Susanna ed Emelina, erano state a servizio di un'amabile e pia signora di New Orleans che le aveva diligentemente istruite e allevate. Esse avevano imparato a leggere e a scrivere, conoscevano le verità della religione e la loro sorte era stata così felice come può mai esserla la sorte degli schiavi, ma il figlio unico della loro padrona aveva l'amministrazione dei suoi beni. E per negligenze e folli spese si ingolfò in grandi debiti e fu rovinato. Uno dei principali creditori, il capo della casa B & Comp di New York, aveva incaricato il suo agente di New Orleans di fargli un sequestro. Quei due articoli e un lotto di schiavi adoperati in una piantagione formavano la parte più considerevole dei detti beni mobili. Il signor B, che era cristiano e abitante di uno stato libero, ebbe qualche scrupolo quando ne riceve la notizia. Non gli piaceva di fare traffico di corpi umani, ma 30.000 dollari impegnati in quell'affare erano una somma troppo considerevole per sacrificarla a un principio. Così, dopo averci pensato molto, e chiesto il parere di persone che egli sapeva disposte a consigliarlo secondo il suo intendimento, scrisse all'agente che sistemasse la cosa come gli paresse meglio. Il giorno in cui la lettera giunse a New Orleans, Susanna ed Emelina furono inviate al deposito per aspettare la vendita all'incanto che doveva farsi il giorno appresso. Noi le scorgiamo quivi al chiaror della luna, attraverso l'inferriata, e possiamo ascoltare il loro colloquio. Esse piangono, ma tacitamente per timore di essere udite l'una dall'altra. Mamma, posa il capo sulle mie ginocchia e vedi se puoi dormire un poco, diceva la giovinetta sforzandosi di parer tranquilla. Non ne ho il coraggio, rispose la madre, non posso. È forse l'ultima notte che passiamo unite, figlia mia. Oh, mamma, non parlare così, forse saremo vendute insieme, chissà. Se ciò avvenisse spesso, direi così io pure, Melina, soggiunse la madre, ma temo grandemente di perderti. Mamma, coraggio! La gente disse che abbiamo ambedue buon aspetto e che si troverà facilmente da venderci bene. Susanna si rammentò agli sguardi e le parole di quell'uomo e le si strinse il cuore dolorosamente quando le tornò alla memoria di averlo visto guardare le mani di Emelina, sollevare i lunghi ricci della sua capigliatura e di averlo udito dire che essa era un articolo di prima qualità. Susanna aveva ricevuto un'educazione cristiana, era avvezza a leggere quotidianamente la Bibbia. E al pensiero di vedere sua figlia venduta a una vita ignominiosa, provava lo stesso orrore che sentirebbe ogni altra madre, ma ella non aveva speranze né protezioni. Mamma, come staremmo bene se potessimo avere un collocamento, eh? Tu per cuoca, io per cameriera in una stessa famiglia. Eppure ho speranza che debba accadere proprio così. Prendiamo l'aria più tranquilla e gioviale che sia possibile, diciamo tutto quello che sappiamo fare e la cosa forse ci andrà bene. Io desidero che domani tu lisci i tuoi capelli e te li leghi dietro il capo, disse Susanna. Perché, mamma? Non farò mica più figura in quel modo. Ma sarai venduta meglio. Non ne vedo il perché, disse la fanciulla. Famiglie rispettabili ti compreranno più volentieri se avrai un'aria di semplicità e di modestia che se tu cercassi di abbellirti. So ben io come vanno le cose. Ebbene, mamma, farò come dici. Senti, Emma, se domani dovessimo essere separate per sempre, se io fossi venduta per qualche piantagione e tu condotta altrove, ricordati sempre ciò che imparasti e i doveri che la tua padrona ti raccomandò. Prendi te con la Bibbia il tuo libro di inni e ne sarai fedele al Signore, ed egli sarà fedele a te. La povera donna parlava così, con la disperazione in cuore, poiché sapeva che l'indomani la sua cara figlia poteva appartenere corpo e anima a qualunque uomo, per vile o brutale che fosse, ed empio, disumano, perché avesse denaro per comprarla. E allora come potrebbe la povera giovinetta conservarsi pura e innocente? I mesti e tranquilli raggi della luna disegnavano su quelle povere creature addormentate l'ombra delle sbarre e delle finestre. La madre e la figlia cantavano insieme una specie di inno funebre che comunemente viene cantato dagli schiavi. Oh, dov'è la dolente Maria che ognor l'aria di gemiti empie? Nei paesi dei giusti montò, non più lacrime spande né geme, ma dal lutto alle gioie supreme del celeste giardino passò. Queste parole, cantate da voci di una singolare e malinconica dolcezza, con un accento che pareva il grido della disperazione di quaggiù verso la speranza del cielo, si innalzavano fra le tetre mura di quel carcere, armoniose e patetiche. E le due donne continuavano a cantare. Cantate, povere donne, cantate. La notte è breve, il mattino vi separerà per sempre. Ed ecco che si fa giorno. Ciascuno è già in piedi, il degno signor Skeks è tutto faccendato per preparare un bel lotto. Egli volge un rapido sguardo sulle acconciature delle schiave e comanda ad ognuna che si mostri nel suo più grazioso contegno e sia ilare e gaia. Poi se le fa schierare tutte intorno per esaminarle meglio prima di condurle alla borsa. Il signor Skeks, col cappello di foglie di palma sul capo e il sigaro in bocca, visita ed esamina ogni capo di merce al fine di dargli gli ultimi tocchi al loro buon assetto. «Che è ciò?» esclama fermandosi dinanzi a Susanna e ad Emelina. «Dove sono i tuoi ricci, ragazza?» La giovinetta guarda timidamente sua madre, la quale, con l'ingenua scaltrezza propria dei neri, risponde: «Le dissi ieri sera di lisciarsi i capelli e di non farli più svolazzare in ciocche, ha così un'aria più rispettabile». Balordaggini, disse brevemente l'uomo e rivoltosi a Emelina, va subito a farti di bei ricci, mi intendi? Soggiunse agitando una canna d'India che aveva in mano. Va e torna al più presto. E tu, disse poi la madre, va ad aiutarla, questi ricci possono fare nella vendita una differenza di $100. Sotto una splendida volta erano radunati uomini di ogni nazione, e passeggiavano avanti e indietro sul pavimento di marmo. Intorno al recinto circolare si vedevano piccole tribune o logge destinate per gli estimatori e i banditori. Una calca di spettatori, con intenzione o no di comprare secondo che l'occasione se ne offrirà, si fa intorno al gruppo degli schiavi, li palpano, li osservano e ragionano sui meriti rispettivi di essi con la medesima libertà con cui i sensali di cavalli discorrono di puledri e giumente. «Olà, Alfredo, che cosa vi conduce qui?» disse un giovane elegante battendo la spalla a un altro giovane ben vestito che col suo occhialetto stava esaminando Adolfo. «Ho bisogno di un cameriere, mi fu detto che si dovevano vendere gli schiavi di Sinclair. Sono venuto appunto per vedere». «Per me», disse il primo interlocutore, «mi guarderei bene dal comprare uno dei domestici di Sinclair. Sono tutti maleducati, impudenti come il diavolo». «Oh, non abbiate timore», rispose l'altro. «Se cadono in mia mano vi prometto che perderanno ogni arroganza e si avvedranno presto che il nuovo padrone è diverso dall'antico. Ma in fede mia, voglio comprare questo giovanotto. Mi piace la sua figura». «Vi accerto che tutte le vostre sostanze saranno insufficienti per sopperire ai suoi capricci. È un vero figliol prodigo». «Oh sì, ma il signorino non tarderà ad accorgersi che con me non c'è mezzo di farlo scialacquatore. Io lo manderò un pochino alla Cala House, dove sarà spogliato da capo a piedi e là egli abbasserà la cresta, ve l'assicuro. Vedrete che diventerà proprio un agnellino. Io lo riformerò di sana pianta. Ho risoluto e lo compro». Tom aveva frattanto percorso con uno sguardo inquieto la moltitudine di volti che si affollavano intorno a lui, cercando con ansia chi fra tanta gente avrebbe voluto chiamar padrone. E se voi foste nella necessità di scegliere fra 200 o 300 uomini la persona che dovesse diventare vostro possessore e padrone, forse vedreste al pari di Tom quanto siano rari coloro ai quali consentireste di essere consegnato senza timore o sospetto. Egli vedeva individui di una varietà infinita di tipi, ma quasi tutti grossolani e volgari, gente usa a comprar neri come si compra la legna per gettare indistintamente sul fuoco, secondo la convenienza. Ma non vide un Sinclair. Poco prima che cominciasse la vendita, un uomo piccolo, grosso e tarchiato, con una camicia di colore tutta aperta sul petto e calzoni logori e sudici, si aprì un passaggio attraverso la folla come chi voglia trattare e concludere presto un mercato, e avvicinatosi al gruppo degli schiavi si pose a esaminarli minutamente. Appena Tom lo vide provò un ribrezzo istintivo e indomabile, ribrezzo che crebbe a mano che il lurido uomo gli si andava appressando. Costui, nonostante la sua piccola statura, era evidentemente di una forza gigantesca, la sua testa di toro grossa e rotonda, gli occhi bigiochiari con sopracciglia rosse e vellutate, le guance bronzine, la rada e scomposta capigliatura non prevenivano in favore di lui. La bocca larga e malfatta era sempre piena di tabacco, il cui sugo veniva ogni tanto gettato fuori rumorosamente e con grande impeto. Aveva le mani larghe, pelose, annerite dal sole, chiazzate e munite di unghie lunghissime e sudicissime. Quell'uomo procedette ad un esame scrupoloso degli schiavi che si dovevano vendere. Egli afferrò Tom alla mascella, gli aperse la bocca per visitargli i denti, poi gli fece rimboccare la manica fino all'ascella per vedere i suoi muscoli, lo voltò e rivoltò per tutti i versi, lo fece camminare e saltare per accertarsi della sua agilità. «Dove fosti allevato?» domandò brevemente, fatta che ebbe la sua ispezione. «Nel Kentucky, padrone», rispose il povero Tom, volgendo intorno lo sguardo come in cerca di un liberatore. «Che facevi?» «Dirigevo la fattoria del padrone», replicò Tom. «Oh, è probabile», borbottò l'altro e passò oltre. Si soffermò davanti ad Adolfo, ma dopo avergli lanciato una scarica di sugo di tabacco sui suoi ben lustri stivali, brontolando con aria di sprezzo, proseguì il suo cammino e si fermò dinanzi a Emmeline e Susanna. Stese la sua manaccia e trasse a sé la giovinetta, le tastò il collo, le braccia, ne visitò i denti. Poi la ricacciò presso la madre, la cui afflitta faccia esprimeva i crudeli tormenti dai quali l'animo suo era travagliato ad ogni gesto dell'orribile straniero. La giovinetta, spaventata, cominciò a piangere. «Finisci, smorfiosa!» disse il venditore. «Non piagnucolare, ora si dà principio all'incanto!» E infatti la vendita cominciò. Adolfo venne aggiudicato per una forte somma al giovane gentleman che aveva già manifestato l'intenzione di farne acquisto. Gli altri schiavi della casa St. Clair toccarono a vari altri offerenti. «Ora a te, galantuomo!» urlò a Tom il banditore. Tom salì sopra il palco e girò intorno a sé lo sguardo inquieto. Non gli giungeva all'orecchio che un mormorio confuso e indistinto, la voce rimbombante del banditore che enumerava in inglese e in francese i vari pregi di Tom e la vivacità rapidissima delle crescenti offerte dei compratori. Ma quasi al medesimo tempo si udì il colpo definitivo del martello risuonare l'ultima sillaba della parola dollari allorché il banditore annunziò che Tom era aggiudicato. Egli aveva un padrone. Fu spinto giù dal palco e l'uomo dalla testa rotonda lo afferrò rudemente per una spalla e lo spinse da parte, dicendogli con voce rauca «Aspetta qui te!». Tom capiva a stento quel che accadeva intorno. L'incanto procedeva rumoroso, assordante, ora in inglese, ora in francese. Il martello cadde di nuovo. Susanna è venduta. Ella scende dal palco, si sofferma e guarda fissamente indietro. Sua figlia tende le braccia verso di lei e la guarda poi con angoscia il suo nuovo padrone, uomo rispettabile, di media età e di benigno aspetto. «Oh, signore, per pietà, comprate anche mia figlia!» «Sarebbe mio desiderio, ma temo che non mi riuscirà», disse il gentleman, guardando con pietoso interessamento la giovinetta che era salita sul palco e che volgeva intorno a sé sguardi incerti e spaventati. Le sue pallide guance si colorarono per la viva commozione, i suoi occhi brillarono del fuoco della febbre e sua madre gemé nel vederla più bella di prima. Il banditore vantava i suoi pregi con enfatiche parole in un misto di francese e di inglese e le offerte salivano con rapida successione. «Farò quanto mi sarà possibile», disse il gentleman con aspetto benevolo e si mischiò ai compratori. In pochi istanti le offerte oltrepassarono di molto la somma che gli poteva spendere, allora egli tacque. Il banditore si animò vie più, ma il numero degli offerenti diminuì, la lotta ferveva ora tra un vecchio cittadino aristocratico e il nostro nuovo conoscente dalla testa rotonda. Il vecchio sostenne la prova, squadrando il suo avversario con uno sguardo spregiativo, ma la testa rotonda aveva il vantaggio su lui tanto per l'ostinazione quanto per la pienezza della borsa, cosicché la contesa presto finì, il martello cadde e la giovinetta divenne cosa sua, corpo e anima, se Dio non l'avesse aiutata. Il padrone di lei è il signor Legré, coltivatore di cotone sulle rive del fiume Rosso. La meschinella viene spinta dal lato di Tom e di altri due schiavi e si ritrae piangendo. Il benevolo gentleman resta addolorato, ma di tali cose ne succedono tutti i giorni. Si vedono sempre fanciulle e madri piangere in questa sorta di vendite. Sono cose inevitabili. Ed egli se ne va col suo acquisto per un'altra strada. Due giorni dopo, il legale della casa B e Comp di Nuova York spediva a quei negozianti il loro denaro sul rovescio della tratta così ottenuta. Scrivano essi queste parole del gran salmista al quale dovranno un giorno render conto delle loro azioni. Quando verrà a chieder conto del sangue, non dimenticherà il grido degli umili.